Buon pomeriggio qui a Montecitorio, incontriamo questo sabato un deputato del Movimento 5 Stelle, Manlio Di Stefano, che è anche una persona che si occupa molto di politica estera. Allora subito la prima domanda, onorevole Di Stefano, che cosa ne pensa della situazione in Ucraina e qual è la posizione del Movimento 5 Stelle? Il Movimento 5 Stelle ritiene che il più grave errore che si possa fare è vedere la situazione in Ucraina come una situazione pro o contro Putin, pro o contro i rapporti Russia-Ucraina. Questa è la solita guerra imperialista alla quale siamo ormai tristemente abituati. L'Europa si trova sempre al centro di questa contesa storica tra i due blocchi, Occidente e Oriente. Riteniamo noi che ci sia una forte necessità di autodeterminazione dei popoli, quindi che tramite un processo diplomatico si debba semplicemente aiutare il paese, l'Ucraina, a trovare una sua dimensione. Poi qualsiasi essa sia, non è questo che deve interessarci. Chiaramente scongiuriamo ogni tipo di intervento militare e anzi spingiamo tutti affinché si risolva la situazione drammatica che c'è in alcune aree ancora dell'Ucraina. L'Ucraina però e la situazione in Russia è determinante per l'Italia per le forniture di gas. Voi sollecitate il governo a fare qualcosa? Noi abbiamo già fatto anche un intervento in aula quando il ministro Mogherini è venuto a riferire in commissione, anzi non in aula, e abbiamo sottolineato più volte commissione esteri, abbiamo sottolineato più volte la necessità di fare un piano forte e preciso che miri alla autosufficienza energetica in Italia, perché finché comunque avremo una grandissima dipendenza dai paesi esteri non potremo mai essere certi di cosa succederà nei prossimi 20 anni. Di conseguenza l'obiettivo dovrebbe essere l'autosufficienza energetica, che potremmo già raggiungere, visto che da alcuni studi fatti dai miei colleghi in commissione sviluppo, ci sono in Italia le possibilità di addirittura 3 volte la capacità energetica di quella che noi necessitiamo. Come? Perché voi del Movimento 5 Stelle ogni tanto apparite un po' utopisti, l'Italia non ha risorse, cioè, è sempre stato detto che dipendiamo dal petrolio, dipendiamo dal gas, anche perché abbiamo votato dei referendum contro il nucleare, quindi voi a un certo punto avete sempre la palla magica, sembra un po' così. No, noi abbiamo fatto delle audizioni, abbiamo fatto degli incontri con degli esperti, i dati in Italia dicono che c'è addirittura una sovrapproduzione di energia, solo che abbiamo dei contratti incredibili con altri paesi che sono con il principio del take or pay, quindi anche se la necessità di energia diminuisce, noi siamo costretti comunque a pagare la fornitura. Questi sono degli accordi scellerati che hanno fatto in passato. Detto questo, l'Italia potrebbe, secondo alcuni studi, potrebbe assolutamente essere autosufficiente grazie alle rinnovabili già. Il problema che abbiamo è che spesso le rinnovabili sono state legate a aiuti europei e quindi semplicemente per fare un po' di cassa e non sono mai state attivate le vere e proprie reti di distribuzione che servissero a gestire questa energia prodotta. Si va verso le elezioni europee. Ieri c'è stato anche un monito dell'Europa che non si possono usare i fondi europei per tagliare il cuneo fiscale. Insomma, alcuni partiti in Italia vorrebbero un allentamento del vincolo del 3% del rapporto deficit-PIL. Qual è la posizione del Movimento 5 Stelle rispetto all'Europa? Molto spesso voi vi siete schierati contro l'euro, contro un'economia strozzata da Bruxelles. Sostanzialmente noi abbiamo sempre detto che i trattati che abbiamo approvato in passato, perché poi dobbiamo anche ribadire che le colpe sono dei governi che abbiamo avuto fino ad oggi, perché i trattati si firmano, e purtroppo ledono all'autonomia dei cittadini italiani e soprattutto al benessere. Noi crediamo che laddove questi vincoli siano restrittivi appunto per il benessere vadano allentati, e per farlo c'è l'assoluta necessità di appunto andare in Europa, e questa sarà l'occasione giusta con le elezioni europee, e ritrattarli. Non significa essere contrari all'Europa o all'euro stesso, significa avere quella sovranità nazionale per prendersi la responsabilità di ritrattare alcuni accordi. Ad esempio il vincolo del 3%, noi abbiamo chiesto che si possa sforare quantomeno per interventi che creano sviluppo economico, come ad esempio aiuti per le imprese, oppure ad esempio il fiscal compact va assolutamente ridiscusso, perché è impensabile che mentre un paese non ha i soldi per le scuole e per la sanità si possano dare 50 miliardi all'anno all'Europa, e questo non può andare bene per noi. L'Europa da una parte invece ha seguito un po' il Movimento 5 Stelle perché ha chiesto chiarimenti sul famoso decreto IMU Banca Italia. Intanto le voglio chiedere, ma lei è uno di quelli che hanno sospeso dall'aula, si è messo il bavaglio, ha assalito il banco della presidenza, e comunque che cosa pensa allora di questa posizione europea? Io purtroppo ero a Strasburgo. Purtroppo perché l'avrebbe assalito. No, perché avrei voluto lottare insieme ai miei colleghi per la difesa dei soldi dei cittadini italiani. Ma ero a Strasburgo, quindi ho visto da fuori la situazione e il parere europeo su questi 7 miliardi e mezzo donati alle banche non fa altro che confermare che la nostra battaglia era giusta, perché se si tolgono 7 miliardi e mezzo ai cittadini per darli alle banche si configura come aiuto in effetti di Stato, e quindi ci preoccupa parecchio. Al di fuori del merito poi del decreto stesso, ancora una volta si fa qualcosa che va contro l'interesse dei cittadini, quindi ci sono due livelli di analisi di questa questione: uno quello proprio nel merito degli aiuti alle banche, e l'altro dell'etica di dove si utilizzano i soldi. Tutto questo avviene nel mondo, ma parliamo di quello che avviene dentro il Movimento 5 Stelle, perché è stata una settimana un po' dura, no? Avete espulso i senatori, altri senatori, 6 se ne sono andati, Grillo ha lanciato tuoni, fulmine e saette, Pizzarotti però, ricordiamo per i radioascoltatori, il sindaco di Parma, Movimento 5 Stelle, li difende. Allora c'è una spaccatura, tutti quanti parlano sempre di questa diaspora che prima o poi ci sarà. Della diaspora se ne parla dal primo giorno che siamo in Parlamento, forse anche prima, e i fatti dimostrano che invece c'è una forte coesione del gruppo. Proprio per questo c'era qualcuno che invece aveva deciso di remare contro il gruppo in modo scientifico e organizzato, abbiamo tutte le prove per questo, e quindi la rete in realtà ha deciso di allontanarli dal gruppo. Noi crediamo che invece il gruppo sia abbastanza forte e possa continuare a fare queste battaglie di legalità e di onestà che stiamo portando avanti in Parlamento. Ma c'è una differenza tra il gruppo del Movimento 5 Stelle al Senato e il gruppo dei deputati, che sembra più compatto, e perché? Ma al Senato sicuramente l'atmosfera è più pesante anche per gli equilibri che ci sono interni ai partiti, quindi sì, io capisco perfettamente che ci possa essere un più forte carico emotivo e di stress legato anche alle attenzioni che gli altri gruppi ti danno. Io dico sempre che questo palazzo non ti combatte con la durezza, ti combatte facendoti diventare uno di loro, quindi col farti credere davvero un senatore, un onorevole, come si vuol dire. E noi alla Camera abbiamo probabilmente la fortuna di essere di più noi, quindi farci più forza l'un l'altro, e poi di essere un po' meno importanti, diciamo, per il sistema, e quindi riusciamo a mantenere l'obiettivo più centrato nelle nostre menti. Al Senato c'è una situazione un po' più complicata, sicuramente. Ma non è una questione di posto ideologico? Cioè, voi siete giovani, siete nati dopo il crollo del muro e il fatto che non c'è più questa divisione così netta centrodestra e centrosinistra, mentre per i senatori 5 Stelle c'è? Sì, probabilmente c'è anche una questione anagrafica, nel senso che le più grandi rivoluzioni sono nate in effetti da gente giovane, perché le strutture mentali sono più facili da abbattere, quindi normalmente questo ci dà magari più libertà di agire senza preconcetti. Domanda un pochino così, tanto per prenderla un attimo in allegria, ma lei tra i rivoluzionari francesi chi preferisce? Per esempio Di Battista mi ha detto che lui preferiva i Montagnardi, lei preferirebbe un Danton o Robespierre? Si sente più un Danton o Robespierre? Io voglio sperare che possa nascere invece una nuova rivoluzione italiana, culturale e sicuramente non violenta, quindi sarà totalmente nuova rispetto a quelle che abbiamo vissuto fino ad oggi. Mi stava dicendo però prima dell'intervista che c'è un Pizzarotti, si è anche un po' riappacificato con Grillo? Le notizie di ieri dicono che sostanzialmente c'è la smentita netta intanto di Pizzarotti stesso riguardo a questa lettera che avrebbe mandato ai dissidenti, che appunto smentisce. E l'altra cosa, ha chiarito lui stesso che c'è stata una telefonata tra lui e Beppe Grillo in cui chiariva una posizione e si spiegavano un pochettino. E noi non siamo abituati come italiani probabilmente a vedere anche i contrasti alla luce del sole. Loro l'hanno fatto su Twitter, ma proprio perché tutto ciò che avviene nel Movimento 5 Stelle in genere avviene alla luce del sole, quindi magari questo può anche stupire ogni tanto, però poi fa parte della dialettica del gruppo. Quindi non c'è un leader massimo di nome Beppe Grillo che vi teleguida magari con l'auricolare come facevano con Ambra Angiolini in Rai? Questo lo dimostriamo ogni giorno con le nostre votazioni in aula, che sono spesso anche, come è successo con il reato di clandestinità, contrarie a quello che è l'idea poi di Beppe Grillo. Ma proprio per questo mi aggancio dicendo che mi fa invece specie vedere, ad esempio, il PD ieri votare contro l'emendamento per il conflitto di interessi dopo che ha fatto una campagna intera sul conflitto di interessi. Forse lui, il PD, ma come tutti gli altri partiti, sono molto più eterodiretti di quanto noi possiamo esserlo. Senta, sull'Italicum c'è una battaglia delle donne, no? Che bipartisan, che vorrebbero cambiare la legge, alla quale però non hanno aderito le donne del Movimento 5 Stelle. Vabbè, lei è un rappresentante maschile, però perché? Semplicemente perché noi crediamo che la parità di diritti, poi di genere, si ottenga grazie a una rivoluzione culturale vera e soprattutto che le famose quote rosa siano un concetto che non vada più bene. E noi abbiamo dimostrato che grazie alle liste aperte, quindi alla votazione con le preferenze sui nostri candidati, la gente ha scelto di portare il quasi 40% di donne nel nostro gruppo. Significa che quando si può valutare nel merito non c'è differenza tra uomo e donna. Allora ringraziamo l'onorevole cittadino, assolutamente cittadino Manlio Di Stefano del Movimento 5 Stelle. Io vi do come al solito appuntamento alla prossima settimana. Grazie a voi per la possibilità di parlare alla vostra trasmissione.